vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore, dolcemente viaggiare. Si può viaggiare anche con l'immaginazione, lasciandoci portare dal cuore. Che ne dite? Intanto buongiorno e benvenuti. Eccomi qua, sono alla vostra salutare ossessione quotidiana. Restate? Restate con me. Dai, salite a bordo, che accanto a me c'è Daniel Lumera oggi. Ciao Daniel. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Grande esperto nell'area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nell'educazione alla consapevolezza, autore insieme alla professoressa Immacolata De Vivo, docente di Harvard, di un libro che è in testissima alle classifiche, mi verrebbe da dire, La biologia della gentilezza. Daniel, noi oggi partiamo per un viaggio e tu sarai il mio copilota e, come si dice, un copilota gentile fa già metà del viaggio. Un piacere essere a fianco a te, Nicoletta. Perché, Daniel, il tuo libro ha ispirato un po' il nostro viaggio e le tappe di questo viaggio. L'itinerario che abbiamo pensato per i nostri amici, che proporremo ogni martedì, toccherà 5 valori cardine. 5 valori cardine per vivere a lungo, sani e felici. Con, come amo dire, il bollino della scienza, perché la ricerca proprio è andata a indagare e a misurare l'effetto e l'efficacia, la ricaduta di questi valori sulla nostra salute psicofisica. Sono delle medicine naturali incredibili, per esempio la gentilezza, il perdono, abbiamo visto l'empatia, ma anche ad esempio l'ottimismo, sono medicine naturali. Chi vuol vivere a lungo sano e felice deve iniziare ogni giorno a cibarsi di questi super alimenti. Allora, prima puntata, guidaci tu, dove ci dirigiamo? Io guido oggi, e tu fai il copilota, non dà la strada, dai, allora. Allora, oggi mettiamo sul navigatore satellitare felicità e musica, ti piace? Molto, perché come scriveva Oliver Sacks, la musica può arrivare al cuore direttamente, non ha bisogno di mediazioni. Allora, la musica è un linguaggio universale, ma anche la matematica è un linguaggio universale, e anche l'arte è un linguaggio universale, ma anche la meditazione, cosa a cui io tengo moltissimo. Questi sono i tre grandissimi linguaggi universali che vanno al di là di barriere, di nazionalità, di diversità. Ma tu sottolinei bene, sono tre linguaggi molto diversi tra loro. Quali sono gli elementi che li tengono uniti e ne determinano anche l'universalità? Allora, innanzitutto sono linguaggi trascendentali, questa parolona che invece è qualcosa di molto semplice. Trascendentali vuol dire che vanno al di là dei confini, delle barriere mentali, che noi, delle diversità. Noi suoniamo Bach, suoniamo, nella nostra tradizione ci sono musiche straniere che vengono accettate, sono delle frequenze, delle informazioni che veramente sono universali, appartengono al genere umano, a tutti gli esseri, che vengono compresi da tutti e sono stati studiati anche da un punto di vista scientifico e medico, e attivano in tutti gli esseri umani le stesse reti neuronali, gli stessi canali che sono associati al piacere, alla qualità della vita. Quindi abbiamo dei percorsi che non sono visibili, tracciati dalle scienze, dalle arti, dal silenzio, anche della meditazione, che possono essere in grado di condurci in un viaggio che ci porta a esplorare più profondamente il significato della felicità e che ha un impatto sulla nostra salute, sul nostro benessere e sulla qualità della nostra vita immenso. Quindi viva i filosofi, viva i poeti, viva i musicisti. Quanto è importante, a proposito di musicisti, Daniel, la musica nella nostra vita oggi? Ma al giorno d'oggi l'elemento musica è un elemento di salute, di fondamentale importanza. Noi abbiamo tante volte citato anche in diversi nostri incontri il fatto che hanno paragonato tante ricerche scientifiche diversi generi musicali, quindi dovremmo, una volta che abbiamo appurato che da un punto di vista biochimico, biofisico, la musica fa bene, è importante, è un elemento per la nostra salute di fondamentale importanza, e dobbiamo trovare ogni giorno uno spazio per coltivare la musica. A questo punto la domanda che dovremmo farci è: quale tipo di musica? È uno studio che viene sempre, quasi sempre citato, che però è importante, è il paragone che hanno fatto gli scienziati tra diversi generi musicali. Ad esempio tra Strauss o tra Mozart, ad esempio, che è sempre in cima alla musica del benessere. Se vogliamo stare bene dobbiamo iniziare dalla Sinfonia numero 40 di Mozart. Però hanno visto, i ricercatori di varie linee di ricerca, anche di varie università, hanno visto che ad esempio anche la musica degli ABBA o anche la musica rock ci fa bene, nel senso che è un elemento che abbassa il livello di stress. Però rispetto alla musica classica, soprattutto rispetto a Mozart, che cosa fa? Che cosa fanno gli ABBA o che cosa ha di meno la musica degli ABBA o la musica rock? È quella che non ha un impatto, ad esempio, sul nostro sistema cardiocircolatorio, sulla pressione. Quindi se vogliamo veramente assumere una medicina naturale attraverso la musica, il meglio del meglio sicuramente è Mozart. Noi, Daniel, viviamo in una società che fa di tutto per soffocare il silenzio. Intanto mi sono appuntata, è Sinfonia numero 40. Comunque, fa di tutto per soffocare il silenzio e sembrano esserci molti studi che evidenziano da una parte il valore terapeutico della musica, dall'altra invece quanto il silenzio possa influire positivamente nella nostra vita. Insomma, musica e silenzio, Daniel, sembrano due lati della stessa medaglia. Dobbiamo coltivare ogni giorno entrambi? In realtà sì, in realtà dovremmo creare degli spazi di silenzio così come degli spazi di suono. La ricerca neurofisiologica ci suggerisce che il rumore prima attiva l'amigdala, quindi gruppi di neuroni situati in aree specifiche del nostro cervello che sono soprattutto collegate alle memorie, alle emozioni, e questa attivazione innesca un rilascio immediato di ormoni dello stress, come ad esempio il cortisolo. Quindi le persone che vivono costantemente esposte a ambienti rumorosi sperimentano livelli di stress cronici molto, molto elevati, certamente. Per esempio, c'è tanta letteratura in merito, a partire soprattutto dal 2005, però ci sono stati tanti medici e musicisti allo stesso tempo che hanno utilizzato la musica come medicina. Bernardi è uno di questi, Luciano Bernardi, che non era studiare gli effetti del silenzio, ma proprio della musica. Però si sono ritrovati a valutare gli intervalli tra il suono, quindi la musica, gli spazi di silenzio tra un suono e un altro, e hanno iniziato a sviluppare una linea molto affascinante di ricerca sulla neurofisiologia del silenzio, ed è per me estremamente affascinante comprendere che è il silenzio tra le note che fa la differenza, come dicevano i grandi, come diceva Mozart. E quindi Bernardi e colleghi hanno notato che quindi questi spazi di silenzio intervallati a caso, tra virgolette a caso, sì, hanno avuto un effetto considerevole sulla frequenza cardiaca, per esempio sulla respirazione, ma anche sui valori pressori. Quindi la musica rilassante è dovuta sostanzialmente al silenzio che contiene, questo è paradossale, anche sui problemi cardiovascolari. Insomma, è il silenzio la chiave della musica. Sembra un paradosso, ma è lì che dobbiamo trovare la chiave del benessere. Daniel, mettiamo insieme queste parole che ci danno le coordinate per la nostra tappa, per parlare poi di felicità e musica. Qual è il ruolo della musica e, devo dire, anche quindi del silenzio, perché queste due parole dobbiamo sempre abbinarle, nella cosiddetta ricerca della felicità? Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire che cosa si intende per felicità, perché l'essere umano ricerca la propria felicità molto spesso nell'appagamento del piacere sensoriale, la cosiddetta felicità edonica. Qualcuno un po' più elevato degli altri cerca di sperimentare la felicità attraverso invece il fatto di coltivare valore, di coltivare virtù, di migliorare se stesso, di aiutare il prossimo. Anche questa è una forma di felicità interessante. Quello che mi ha affascinato di più negli studi scientifici è che a parità di piacere, cioè a parità del fatto che le due esperienze di felicità, quella edonica, quella che si ricerca nel piacere sensoriale, nell'appagamento dei sensi, e quella invece che si ricerca attraverso lo sviluppo dei valori, entrambe creano soddisfazione, però la prima ci debilita il nostro sistema immunitario, è una felicità che non è un buon investimento, è una felicità illusoria, una felicità transitoria, e questa società purtroppo vende questo tipo di felicità. Invece oggi sarebbe bello esplorare una felicità naturale, che dipende dalla consapevolezza dell'essere. Sostanzialmente cosa sto dicendo? Che le persone che sono sveglie nel miracolo della vita, cioè si rendono conto, sono consapevoli di esistere, di essere presenti costantemente in un miracolo, maturano, manifestano una felicità esistenziale di base, di default, spontanea, che è la migliore medicina, questa è la ricerca scientifica che viene dagli studi sulla meditazione, che è la migliore medicina che noi possiamo assumere ogni giorno. E la musica induce questo stato, la musica ci aiuta a entrare in uno stato di consapevolezza e di riconoscimento del fatto che siamo immersi costantemente in un miracolo che purtroppo molto spesso diamo per scontato, che si chiama esistenza, vita. Allora, nel nostro viaggio, come vi abbiamo raccontato in apertura, la vostra salutare ossessione quotidiana, la Nico guida, sto attenta, il copilota è Daniel Lumera, copilota gentile, e ogni tappa carichiamo su un passeggero, naturalmente un passeggero che ha a che fare, che rimanda, che ci può raccontare qualcosa, allargare lo sguardo, insomma dare sostanza a quello di cui stiamo parlando, e in questo caso parlando di felicità. Parlando di musica, Daniel, la scelta, siamo stati assolutamente, il nome l'abbiamo pronunciato all'unisono, e infatti sale a bordo Stefano Bollani, ciao Stefano! Ciao, buongiorno, ciao Nicoletta, ciao Daniel, ciao a tutti! Ciao Stefano! Ma noi ciao. Siamo felici, già questo ciao a me rende felici, felice, anche vedo che si sta illuminando Roberta Frisani che è in regia alla parte tecnica, anche Laura Vanossi che è dietro al vetro in redazione in assistenza, vedi Stefano già arrivi tu e già tutti siamo sorridenti e felici. Qual è il primo ricordo sulla felicità di Stefano Bollani? Guarda, io ammetto, la potrei collegare alla musica. Il mio ricordo è il piacere di potersi sentire dei dischi, addirittura di poter scegliere. Avevo il mangiadischi, per cui buttavo dentro i dischi che riconoscevo dal colore, no? I 45 giri. Sì. Questo per me era già un ottimo esempio di felicità. E che bello, che quando avevamo questa, erano, ce lo portavamo sempre dietro, infilavamo, belli, bei tempi. Sì. Senti, sì. Stefano. Esiste un genere musicale, una canzone che ti rende più felice degli altri? Non so se me la passi questa domanda. Poi te la anche, passo, però avrei potuto fare di più, ma fallo no, tu. No, la correggo, per come la vedo io ci sono delle musiche che mi rendono più allegro di altre, sicuramente. Per cui, per esempio, la musica brasiliana in generale, nonostante sia intrisa di quella che loro chiamano saudade, cioè di malinconia, anche quando è ballo, anche quando è rito collettivo, però è intrisa anche di comunicazione con gli spiriti, perché il loro legame con gli spiriti è ancora molto forte rispetto a quello che abbiamo noi in Europa. Quindi, insomma, ti direi forse sì, forse è felice, dai, mi rende felice. Dai. Anche il nostro copilota sarebbe felice sicuramente di farti qualche domanda. Daniel. Ma io sono sempre affascinato quando parlo con Stefano Bollani per il fatto che riesce a trovare, ad esempio, nell'elemento di saudade, della tristezza, un elemento positivo. Invece la mente umana normalmente giudica come negativo o positivo a prescindere dal fatto di esplorare, ad esempio, la natura di un'apparente ombra. Ma in questo periodo sono affascinato, appena finito anch'io, di fare uno studio bellissimo sulla gentilezza, che è un elemento che è un elemento importantissimo nella vita, nella malattia, nella morte, nel successo, nel fallimento. Quindi volevo chiedere a Stefano una riflessione sulla gentilezza, se vuole una riflessione gentile, partendo da una mi è venuto in mente questo: se la gentilezza fosse una melodia, una canzone, tu riusciresti a indicarla, ti viene in mente qualcosa a riguardo? E che cos'è per te la gentilezza? Ah, intanto mi riallaccio al tuo discorso per dire che la musica ha un grandissimo vantaggio rispetto ad altre forme di comunicazione come quella che stiamo usando noi, che è quella delle parole, per cui nella musica non ci sono il bene e il male, non c'è la nota buona, la nota cattiva, esistono, è vero, le consonanze e le dissonanze. Cioè la consonanza è quando due suoni si incontrano e il risultato è meglio ancora dei suoni presi singolarmente, la dissonanza è quando i due suoni si incontrano e invece producono qualcosa di aspro. In musica si utilizzano moltissimo anche le dissonanze, vanno benissimo, servono, anzi sono molto utili per poi tornare alla consonanza, perché se non ci fossero le dissonanze, cioè se non ci fosse un qualcosa di aspro, non ci gusteremo fino in fondo la consonanza. Questo quindi è vero un po' anche nella vita. È vero anche nella vita, ma noi facciamo fatica nella vita, facciamo fatica a ricordarci che ogni nota non è presa da sola, non è né buona né cattiva, e ogni essere umano preso da solo, con i propri ragionamenti, non è né buono né cattivo, sta semplicemente seguendo un proprio percorso. Volevo dirti un'altra cosa che mi è venuto in mente, che non è c'è una frase bellissima che dice: non è ciò che accade, ma come vivi ciò che accade, che fa la differenza. Ed è meravigliosa questa attitudine trascendentale che solo la musica può dare rispetto agli accadimenti del mondo, a cui noi spesso diamo una connotazione negativa o positiva, invece sono così, sono veramente neutri, dipende da come noi li abitiamo, che dà un senso alle cose. Probabilmente siamo il senso di ciò che accade. Scusa Stefano. Bravo, non solo, mi riallaccio sempre a quello che dici per aggiungere che la musica è uno straordinario esempio di entropia, ma anche di sintropia, perché tutto quello che accade in musica ha valore, certo, è bellissimo, questa nota è bellissima, ma è bellissima proprio perché prima ce n'era un'altra, differente, ed è bellissima perché va verso un'altra e ci attira. La musica spesso ha ragione in questo modo, c'è un accordo che ti tira verso un altro e quindi ti fa immaginare il futuro. Poi non è detto che arrivi quell'accordo, magari ne arriva un altro, e in musica si chiama cadenza di inganno, quando tu fai presagire qualcosa e poi non la fai, vai in un'altra direzione. Però cosa ci dice questo della musica? Che appunto trova un senso sia nel passato e nel futuro, però facendotela godere nel presente. Ma senti, allora se la gentilezza fosse una canzone, una melodia? Sai che è difficile, però io al volo, naturalmente senza troppo riflettere, ho pensato mentre parlavi a Francis Poulenc, quel compositore francese di un'eleganza per me molto alta, e forse in quell'eleganza, in realtà io non ho mai usato il vocabolo gentilezza, ma forse c'è proprio la gentilezza d'animo, e concordo con Daniel sul fatto che sia un valore evidente, soprattutto in questo periodo, perché nel lockdown, voglio dire, ci siamo resi conto di quanto sia importante essere gentili con le persone che vivono con noi, perché altrimenti non sopravviviamo. Certo, e tu durante il lockdown hai più volte ricordato e sottolineato quanto sia efficace la musica, il valore terapeutico della musica. E volevo chiederti, tu hai citato un musicista, ma qual è il musicista più importante che ha influenzato la tua carriera, dato che abbiamo il copilota gentile? Se lo avessi davanti ora, come lo ringrazieresti? Ah, ringrazierei Enrico Rava, che per fortuna ho l'occasione di ringraziare spesso quando ci sentiamo al telefono, anche in questi giorni, perché oltre a essere un grandissimo musicista, un grandissimo poeta e un grandissimo essere umano e un maestro, mi ha dato veramente molta fiducia nelle mie possibilità quando l'ho incontrato nel 1995, e da allora non ha mai smesso di darmene. Nel tuo ultimo lavoro, Stefano, Jesus Christ Superstar, c'è una persona, ne parlavamo con Daniel, una persona molto particolare, Giuda, di cui tu tra l'altro parli molto spesso nelle interviste. Perché la figura di Giuda è una figura positiva o negativa? Ah, io devo ringraziare Jesus Christ Superstar per avermi fatto aprire gli occhi sulla figura di Giuda, perché Giuda spesso è il male assoluto, mentre invece in Jesus Christ Superstar è protagonista, perché appare e si porta addosso dubbi che sono anche nostri, e finalmente io mi sono trovato a dire, a essere in empatia con Giuda. Su alcune cose potevo capire come si sentiva e stavo male per lui, quindi questa è una grande notizia, perché quando cominci a stare male per qualcuno che ti ha fatto del male, se è un passo da accettarlo. Quanto è importante, Stefano, per me questa domanda è sentita in profondità, quanto è importante per te il silenzio nella tua vita? Come vivi il silenzio e che ruolo ha il silenzio nella tua esistenza? Ha un ottimo ruolo. C'era lo slogan della H&M, un'etichetta con cui collaboravo, che diceva l'H&M è il miglior suono oltre il silenzio. Perché in effetti nel silenzio c'è tutto e c'è tutta la musica potenziale del mondo. Per me che faccio musicista, il silenzio è l'ideale, perché è lì che poi uno accede all'ispirazione, entra in contatto con la musica che potrebbe esistere e che tu hai la possibilità di cavar fuori. Ma, senti, ti faccio una domanda che mi viene in mente adesso, che apparentemente non c'entra niente, però se immagina che su questa, visto che stiamo parlando di oltre, immagina che sulla Terra arrivassero degli alieni, a parte che siamo noi gli alieni di questo pianeta, però immagina che arrivasse un extraterrestre e tu dovessi, senza parlare, visto che hai detto che si tratta di un linguaggio universale, se tu dovessi comunicare un extraterrestre attraverso tre canzoni, Ok, faccio ascoltare un extraterrestre tre canzoni per raccontargli il genere umano. Ecco, così ha un quadro bello chiaro, subito. Della mia follia, però. Sai che io a questa cosa ho pensato spesso, un po' perché qualcuno l'ha dovuto fare. Abbiamo mandato delle sonde in orbite, abbiamo mandato Beethoven, no? Come dire, questo è il massimo che noi come genere umano siamo riusciti a produrre. È accaduto, non mi ricordo quale sonda mandava Beethoven in giro per il l'universo. Io mi faccio un grosso problema, vorrei prima sentire un pezzo loro. perché ammetto forse questo mi rendo conto che è un atteggiamento dirimente anche nei confronti del pubblico, però prima vorrei sapere qual è il loro mondo musicale, perché a quel punto sicuramente troverei qualcosa che ci unisce. Ecco. Stefano. Perché sai cos'è? No, scusate, sì. Ma io c'è anche un grosso dubbio. Loro potrebbero prendere Beethoven malissimo. In fondo Beethoven ha un inizio molto aggressivo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cioè, immagina che la popolazione aliena ci proponga un brano del genere, noi ci spaventeremmo. Quindi io starei molto attento, sicuramente non manderei niente che ricordi la tensione e il conflitto. Forse darei un'immagine troppo patinata del genere umano, mi rendo conto, però se tocca a me, io cerco di presentare il meglio del genere umano, quindi una musica che viva anche di dissonanze, ma che tenda alla pace. Senti, però noi vorremmo fare arrivare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che sono in viaggio con noi, una tua ricetta, un motto, un'idea, una suggestione che coniughi e mescoli bene insieme, come abbiamo fatto in questa nostra chiacchierata, musica e felicità e silenzio. Al volo, così? Certo, sei Stefano Bollani, sono mica io Stefano Bollani. Sì. Io al volo devo coniugare musica, felicità e silenzio. Sì. Vuoi un brano per coniugare tutto questo? Puoi mettere un brano, una frase, un tuo ricordo, una cosa che non c'entra niente, come per dire viva la Nico, insomma qualche cosa. E così, per lasciarci con ancora la voglia di... Però, che bello, mi piace. Ok, allora posso lasciarti con questo pensiero. Quando parliamo di musica, quasi tutti noi, io per primo, parlo di una certa forma di musica, anzi un modo di ascoltare la musica, che è quello per cui c'è uno che sale su un palco e gli altri applaudono. Spesso ci riferiamo a questo, che è una cosa molto recente, ma nella storia dell'umanità la musica ha tutt'altro ruolo, non solo quello di elemento aggregatore, di fatto sociale, ma quello appunto di canto spirituale, di contatto con gli spiriti. Il canto rivoluzionario ha un ruolo di terapia evidente, perché da sempre i popoli cantano canti di cura, è una forma di comunicazione, è un gioco, quando si fa tutti insieme, è addirittura il fondamento dell'universo, perché l'universo è un suono, è una vibrazione. Quindi insomma, propongo un brindisi a tutti i poteri della musica e di conseguenza al potere del silenzio. E un applauso, e un applauso a Stefano Bollani, grande! Grazie Stefano, torna a trovarci. Daniel. Grazie Stefano, quando volete. Un abbraccio grandissimo. Grazie. Anche a te un abbraccio, ciao Nicoletta, anche ciao, a te. Ciao, grazie, ciao, mi prendo anch'io un abbraccio, Daniel, lo rimando anche a te, ti abbraccio e ti aspetto per il prossimo martedì. Grazie, buon viaggio. Buon viaggio.